Lei come fa a bloccare in maniera credibile le stazioni appaltanti da fare gli sprechi? Lei ha bisogno di sapere in tempo reale che qualcuno sta comprando una sedia a 100 euro quando un'altra amministrazione la sta comprando a 50 euro e a quel punto, avendo il dato reale, dice a quella di 100 euro, mi dispiace, non li puoi comprare. Questo ce l'hanno tutti i paesi del mondo, io giro il mondo a vedere stazioni appaltanti tipo la Consip che non fanno le gare grandi. Le singole stazioni appaltanti, i comuni, le regioni fanno le loro gare su una piattaforma però unica, perché ormai ci possiamo permettere con tutta la tecnologia che abbiamo, che permette a un singolo ente centrale di controllare chi compra cosa quando. Ora, 3-4 anni fa è uscito uno studio importantissimo di 3 ricercatori, 2 della London School e 1 di Tor Vergata, che avevano tutti i dati, miracolo, di tutte le gare che si sono fatte in Italia con la Consip e con le altre stazioni appaltanti dal 2004 al 2006. E che hanno scoperto questi 3 signori bravissimi, che hanno pubblicato sulla rivista scientifica più importante che esista al mondo, che si chiama l'American Economic Review, hanno scoperto che lo stesso giorno le stesse sedie venivano comprate a prezzi completamente diversi. Hanno fatto la somma di tutti questi sprechi che si facevano in Italia in quegli anni. E sai che è uscito fuori? È uscito fuori uno spreco totale del 2% di prodotto interno lordo. Stiamo parlando di più di 30 miliardi di euro. Ecco dove si può tagliare. 30 miliardi di euro. Ora però questa informazione, se lei non ha i dati in tempo reale, e non poi riesce, è chiaro, non riesce a applicarlo. Cioè, o io so che i dati, non basta però avere i dati, perché tu puoi dire i dati, tu guarda che dati e poi le cose vanno avanti lo stesso. Devi avere i dati e poi il potere autorizzatorio di bloccare quello che sta comprando le sedie a 100 euro se c'è un'altra amministrazione, un ministero accanto che le sta comprando 50, tanto sempre di sedie stiamo parlando, non è che una ha 4 gambe e l'altra ne ha 3.